9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 22 di novembre, titolo un po' forte oggi per il nostro inizio settimana, io ti fotto. E non è una trasmissione dedicata alla politica, naturalmente, come qualcuno di voi maliziosamente immagino ha subito pensato, una specie di seguito alla lite tra Mussolini e la Carfagna. No, nuove rivelazioni su quello che avviene nelle scorte che protestano per quello che devono portare a ville di politica. No, è il titolo di un libro di due colleghi molto bravi, si chiamano Marco Morello e si chiamano Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Antonio Padellaro. Marco Morello è un giornalista che scrive per diverse testate, sono due giovani, nel senso che sono molto più giovani di me, quindi sono giovanissimi, no, nel senso io sono un ex giovane, ma loro sono giovani sul serio, e hanno fatto questo libro che esce per le edizioni Ponte alle Grazie. I 14 euro sono ben spesi, secondo me, per le 225 pagine del libro, se volete fare una iniezione al vostro sistema immunitario, cioè volete scuotere con una certa energia la vostra capacità di incazzarvi per le condizioni che spesso si incontrano nella nostra vita quotidiana di cittadini, di consumatori, di utenti di servizi pubblici, di clienti di aziende private, perché una delle regole nazionali del nostro vivere civile da sempre, una delle condizioni alle quali non a caso dalla commedia dell'arte in avanti fino ai grandissimi film dei comici italiani spesso hanno dedicato delle descrizioni di sintesi amara e anche ironica, tra le più sapide della vita italiana, c'è la truffa, il gusto del fregarsi a vicenda, quella specie di autobiografia nazionale che è il 640 del codice penale, che descrive appunto la truffa con tutte le sue aggravanti. E quindi il libro Io ti fotto è in realtà dedicato, con una serie di capitoli messi in fila, a tutti coloro che si dedicano nel nostro calidoscopio nazionale all'arte del fregare lo Stato, del fregare in nome dello Stato i cittadini, del fregare da parte dei cittadini lo Stato e la collettività, aziende che rubano ai clienti, banche che non dicono la verità sulle condizioni praticate nei loro prodotti, agenzie onlus che in realtà servono non a fini di lucro ma a scopi umanitari e in realtà raccolgono soldi con cui poi si pagano ville e belle signore, eccetera eccetera eccetera. Quindi ci sono diversi capitoli in cui a rotta di collo, con rapidi tratti di penna efficace, Morello e Tecce vi fanno prendere un po' di arrabbiatura, ma soprattutto vi insegnano, se possibile, e anche il fine della trasmissione di oggi, non tanto a fare risate su noi stessi, quanto a tentare di renderci un pochino più consapevoli, ecco, un pochino meno ingenui e un pochino più avveduti nell'ABC di come evitare che la fregatura in perenne agguato, sport nazionale reciproco, possa farci nuovamente vittime. Quindi io chiedo a tutti voi in ascolto magari di farci anche qualche telefonata per raccontarci qualche fregatura di cui siete stati vittima, siete ancora vittima o non riuscite a evitare di essere vittime. Naturalmente la cosa più bella sarebbe se qualcuno di voi facesse cadere la maschera e telefonasse per raccontarci come, perché in realtà non riesce a fare a meno di fregare i propri simili, ma su questo naturalmente non conto, perché una delle vere caratteristiche della fregatura è la sua capacità di essere simulatrice e dissimulatrice. E qui, però, certo, sarebbe una bella cosa se qualcuno si pentisse in diretta di qualche fregatura che ha compiuto ai danni dei suoi cittadini o dei suoi clienti, dei suoi fornitori, dei suoi dipendenti, che ne so. Magari sarebbe una bella giornata quella in cui potessimo vantare una telefonata di pentimento e redenzione. Io non ci posso fare niente per la redenzione, rivolgetevi a qualcun altro, ma insomma pentirsi in pubblico fa sempre bene. Ecco, dopo queste banali parole di presentazione vi presento i due autori che oggi sono con noi per l'intera trasmissione, quindi un saluto a Marco Morello e a Carlo Tecce. Buongiorno a entrambi voi. Buongiorno. Buongiorno. Se dite buongiorno così non si capisce chi è Marco e chi è Carlo, quindi naturalmente. è un problema delle coppie. Ho capito, però poi alla fine quando si inizia con i problemi si finisce a separarsi, per così dire. Allora, io direi di iniziare rapidamente, siccome come ovvio un libro o due, per chi non ne fosse, non avesse una grande consuetudine, un libro due, uno pensa che c'è uno che si scrivono insieme, libro due. Sì, è vero, si fa un piano insieme, poi altrimenti si divide il lavoro, perché come i mariti e le mogli non fanno le stesse cose, è così anche i coautori dei libri. Quindi io inizio a polemizzare, oltre che a farvi il monumento che già vi ho fatto, separatamente con ciascuno di voi, un pochino per i diversi temi, perché secondo me qualche volta avete anche francamente un po' esagerato, io tanto lo dico sempre per chi mi conosce, cioè è anche facile, prima domanda che faccio a entrambi, non è un pochino scontato dire che gli italiani sono tutti un po' così, perché si finisce per fare un po' di tutte erbe un fascio, cioè sono molto più vittime che in realtà fregatori gli italiani, e poi non tutte le fregature sono proprio fregature, voglio dire, a un certo punto voi per esempio nel descrivere l'attitudine nazionale nei confronti delle tasse, l'evasione eccetera eccetera, per esempio smanacciate a palmo di mano un po' duro Milano, perché il sindaco di Milano a un certo punto da Palazzo Marino, se non ricordo male, al Dolce Gabbana, e voi Dolce Gabbana li trattate come se fossero condannati per evasione fiscale. Quelli sono, hanno un'indagine per evasione fiscale, ma però il caso Ornella Muti dimostra che magari ogni tanto, ne abbiamo parlato recentemente, l'Agenzia delle Entrate mette nomi di un certo rilievo nel mirino e poi scopriamo anni dopo che magari non erano così colpevoli, ma era semplicemente il tentativo di portare a casa consensi. Comunque questo è praticamente l'unico caveat che io do ai nostri ascoltatori, perché Morello e Tecce a volte secondo me un po' esagerano, però hanno sostanzialmente ragione al 99%. E allora con chi vogliamo cominciare? Cominciamo con Carlo Tecce. E la cosa che mi ha colpito all'inizio è... parliamo un secondo della dimensione pubblica, no? La dimensione pubblica, cioè quella, intendiamoci, quando dico dimensione pubblica voglio dire dei grandi nomi della finanza, dei grandi nomi, c'è cioè in un capitolo che è tra i primi del libro, I professionisti del Foster, una rapida carrellata, si va da familiari di Carlo De Benedetti per la sua vicenda eccetera eccetera e così via, nel senso che poi nel seguito del libro ce n'è di tutto, si ripercorrono gli scandali da quello Cirio, Parmalat, insomma non si risparmia nessuno. Allora la prima domanda è, nella descrizione delle fregature rifilate da parte di grandi finanzieri al mercato eccetera eccetera, domanda secca, perché molto spesso i protagonisti della vita imprenditoriale finanziaria, questa è l'area di Confindustria, quindi che si apprezzi che io inizio con una domanda così esplicita, non riescono a fare a meno rifilare fregature al parco buoi, quando invece è la fiducia una delle cose fondamentali su cui dovrebbe poi camminare il mercato. Questo spiega secondo me poi perché il mercato italiano resta così asfittico, perché le fregature restano così frequenti. Ma c'è qualcosa di culturale nella vita italiana in questo, nei protagonisti della finanza italiana? Beh, a parte che un mercato, tu lo sai benissimo, è viziato da tanti problemi, quindi cercare la via più breve è sempre quella migliore. Quello che colpisce di più, quelli che noi indichiamo come i professionisti del fottere, che per carità non si offendano, è che allora è consentito sbagliare, magari anche sbagliare dei conti con il fisco, oppure consentito sbagliare nelle procedure di avviamento di un'attività. Quello è la differenza con il proletariato del fottere, magari se vogliamo indicare una sorta di piramide sociale del fottere, e cioè che faccio un esempio, un dipendente delle poste di un paesino del sud o del nord è indifferente, che frega un cliente di 100 euro, agli occhi di quel paesino verrà bollato sempre come un piccolo delinquente. Invece tutte le onte, sia provvisorie come su Dolce Gabbana o definitive su altre come su Tanzi e Cragnotti, bene o male poi scivolano, cioè poi si arriva sempre a una seconda, terza, quarta, quinta opportunità, sono ancora più credibili perché hanno, in quel periodo del fottere, hanno assunto ancora più popolarità. E chi lo sa, perché ci sono anche poi vicende che sono al limite, se pensiamo alla politica, è uno dei protagonisti, al protagonista sedicente della politica italiana, non si riesce mai a capire la sospensione tra il fregare, diciamo così, sto parlando di illeciti giudiziari, come momento di persecuzione, che è l'autorappresentazione che questo personaggio fa di se stesso, e l'impossibilità di un giudizio definitivo, perché poi alla fine questa è da 16 anni la parabola che viviamo in politica. E di che cosa stiamo parlando, se non del margine assolutamente impalpabile di incertezza che c'è tra il costituire una verità pubblica, cioè questa persona sta al di là della legge, oppure invece appurare che ha ragione lui, che è una persona perseguitata dalla legge. Voi capite bene che quando per 16 anni un paese vive nell'incertezza di poter stabilire con chiarezza condivisa il sottile confine, che in realtà è una muraglia cinese come spessore, che sta tra la prima e la seconda condizione, è un paese nel quale effettivamente lecito e illecito diventa. Poi, questa è anche un'altra delle mie chiavi di lettura, una delle specificità italiane è questa, che è un paese in cui si può per 20 anni dire sono un perseguitato e qualcun altro ti dice ma neanche per idea, tu sei un bandito, ma se in 20 anni non si riesce a stabilire, capite bene che l'incentivo a fottersi e a fregarsi a vicenda, secondo me, diventa un pochino più efficace e moltiplicativo di quanto non accada in altri paesi invece. Allora, uno dei capitoli di cui mi ero dimenticato era quello relativo ai costi del general contractor nelle ferrovie dello Stato. E allora, Morello, lo vogliamo ricordare a chi è in ascolto che questo singolare meccanismo, in teoria nato per fare l'alta velocità in Italia, quindi con l'affidamento a privati che poi subappaltavano per avere più rapidità nei tempi, più efficacia nelle opere e costi più sotto controllo, alla fine è una specie di bomba atomica per la bellezza di quanti miliardi di euro, di cui non sappiamo se i costi verranno aggravati o meno di realizzazione dell'alta velocità ancora? Beh, il problema è esattamente questo, che non si sono quanti, sa esattamente quanti miliardi di euro alla fine saranno, perché c'è tutto un discorso di correzione in corsa. Cioè vengono valutati volta per volta con una serie di aggiustamenti, e se effettivamente poi questi dati vanno a passare sono tutti quanti dei costi che la collettività dovrà subire, dovrà accollarsi. Questa è stata definita nel libro come una sorta di bomba orologeria che è presente sotto la sede dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, e questo secondo me poi è un problema generale che si ripercuote un po' in tutta quella che è la lettura del libro. Cioè tu prima parlavi anche di rischi di banalizzazione, cioè del fatto che si tende a fare di tutta l'erba un fascio, e comunque che è facile dire che un po' gli italiani fottano tutti quanti. Il problema vero è che è una questione di livelli, cioè una questione di correità, di corresponsabilità, che si ripercuote in qualche modo sia di chi appunto tiene in mano le leve del potere, sia chi effettivamente poi deve subire queste decisioni. Nel caso delle ferrovie dello Stato è esattamente questo, per velocizzare in qualche modo, che poi effettivamente se di velocizzare si riesca o meno, insomma è tutto da vedere, si rischia in qualche modo di fare una sorta di outsourcing generalizzato, collettivo e continuo, e questo fa sì però che questo outsourcing, quindi questo delegare, questo in qualche modo utilizzare una sussidiarietà nel privato, fa sì che coi costi non si possano mai effettivamente valutare fino in fondo, e questo è un rischio perché questa procedura in qualche modo si sta estendendo sempre di più, e per tutte le grandi opere poi si finisce in qualche modo per utilizzarla, per enfatizzarla, e insomma alla fine quelli che siamo fregati siamo noi, è vero, ma saranno anche quelli che verranno dopo di noi, perché magari avranno sempre di più questo debito che graverà su di loro, insomma questo è un po' il senso. Oh, caro Tecce, andando avanti nella galleria del ricordo delle operazioni più eclatanti, recenti, c'è una storia di cui noi ci siamo occupati spesso e che a me lascia ancora senza parole, perché noi non siamo riusciti a fare di questa storia, che secondo me aveva tutte le caratteristiche per diventare un tormentone nazionale, una vicenda simbolo di come sia incredibile che avvengano ancora nell'Italia di oggi, a 3 anni dall'inizio della crisi finanziaria, che nasce nel mondo dell'intermediazione bancaria, nasce perché le banche fanno operazioni spregiudicate eccetera eccetera, eppure questa storia al di là della cronaca dei quotidiani napoletani non è andata, e mi riferisco a una vicenda che voi ricordate ricostruita, quella della Banca Popolare del Meridione, che con tanto di autorizzazione della Consob a raccogliere il capitale in forma di Banca Popolare, quindi dando a centinaia e centinaia di soggetti l'illusione, l'ambizione di diventarne soci con un po' di decine di migliaia di euro. E poi questo singolare personaggio, che veramente a mio giudizio sembra uscito da una storia della commedia dell'arte, sedicente principe, alla fine, dopo aver regolarmente raccolto il capitale col prospetto regolarmente autorizzato dalla Consob, aver portato dietro di sé nel comitato direttivo di insediamento della banca praticamente decine di cattedratici napoletani, nome di prestigio, ex ufficiale dell'arma dei carabinieri, eccetera eccetera, raccolto il capitale, sparisce, i soldi spariscono, lui sparisce a tutti gli effetti, nessuno sa che fine abbia fatto. E nessuno è riuscito in grado, non è stato in grado di bloccarlo, i suoi stessi consoci, per così dire, solo a denaro sparito e ad autorizzazione richiesta alla Banca d'Italia già da mesi, hanno finalmente aperto gli occhi dopo che per anni gli tenevano bordone. Questa storia, ti chiedo innanzitutto, qual è la tua impressione sul come mai non è diventata una storia nazionale, visto che in definitiva coinvolge le massime autorità di vigilanza dei mercati finanziari italiani ed è rimasta invece una povera storiella di cronaca per far ridere i napoletani di se stessi? Come mai? Sembra una commedia di Edoardo, invece è una storia molto seria. E poi la dinamica dei fatti, come tu hai raccontato, è magnifica, perché lui prima si è creato un curriculum, tre lauree, ha chiamato istituti finanziari, professori, magistrati, alti funzionari, ha coinvolto la Napoli bene, addirittura ha coinvolto anche la Puglia. Questa è l'idea della Banca del Meridione, è una sorta di idea tremontiana, no? E lui ha cercato di coinvolgere, fare questo asse sulla Bari Napoli, di una banca poi inesistente. E anche le cronache se ne sono accorte soltanto quando questo Raffaele Cacciapoti è scappato via e non c'è più traccia dei 10 milioni di euro che hanno versato 842 soci in 2000 euro ciascuno. Perché questa storia non ha raggiunto i media nazionali? Forse perché noi di queste storie siamo assuefatti, anche se è una storia che richiama tutti gli organi di controllo e tutte le procedure di una truffa economica in tempo di crisi. Forse mi rispondo perché siamo assuefatti e abbiamo già creato le categorie delle grandi truffe, truffe serie A, serie B, serie C, questa sarà tra la serie B e la serie C. Non lo so però, perché la mia sensazione è che, considerando una storia come questa di serie B, di serie C, spiega anche perché poi, e qui faccio mia colpa come giornalista che si è occupato di economia e finanza innanzitutto nella propria carriera, perché poi noi siamo così bravi a spiegare ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, ai nostri clienti, per così dire, della riduzione della simmetria informativa, che dovrebbe essere una delle finalità fondamentali per cui c'è l'informazione economica finanziaria. I mercati non funzionano, e cioè c'è qualcuno che viene raggirato se compra un prodotto o un servizio, quanto più il titolare del potere di informazione, chi ha realizzato, congegnato quel prodotto, ovviamente per massimizzare il proprio rendimento, meno ti informa delle caratteristiche di quel prodotto. E noi come giornalisti dovremmo proprio tentare di entrare in quest'area grigia per prendere atto da una parte di chi quel prodotto lo ha congegnato e tenta di venderlo, e dall'altra però mettersi nei panni di chi lo deve esaminare in maniera comparata per il proprio stock patrimoniale, per il proprio reddito disponibile, e dargli gli strumenti aggiuntivi per diminuire la simmetria informativa. Lo dico a proposito di una parte dello stesso capitolo in cui c'è la storia del Cacciapoti e della Banca Popolare Meridionale, che è quella relativa ai mutui, perché voi nel libro giustamente li richiamate non tanto con lo spirito di approfondire ulteriormente, ma per ricordare quanto grigio vi sia ancora oggi nell'offerta dei diverse tipologie di mutuo dalle banche ai clienti, perché in realtà resta molto complicato per il cliente, pur apprendendo il TAEG, le condizioni del rendimento di base del mutuo che viene offerto, quanto in più bisogna pagare rispetto ai soldi che si prende. Ed effettivamente, sia pure in maniera stringata, voi in una paginetta e mezza, secondo me rendete un ottimo servizio a chi legge il libro non tanto per approfondire dei mutui, perché in una paginetta e mezza voi avete fatto delle simulazioni alla mano su come concretamente, per prendere 150.000 euro dai maggiori diversi istituti bancari italiani, si finisca per pagare fino a 50.000 euro in più. Ed è questa cosa del dire quanto in più rispetto a quello che si prende in un paese a bassissimo tasso di alfabetismo finanziario, secondo me, io vi ringrazio perché ci date una lezione, perché mentre noi ci perdiamo tanto nel parlare sugli switch tra mutui a tasso fisso e variabile, sulle possibilità che vengono offerte in maniera crescente da diversi istituti per l'orizzonte incerto che è il futuro dei tassi negli anni a venire, la cosa fondamentale per chi non è molto bravo nell'interesse composto come gli italiani è quella di dirgli: guarda, se prendi questo tu paghi tot decine di migliaia di euro in più. La cosa fondamentale che voi avete fatto in questa paginetta e mezza, secondo me, è l'ABC da cui noi complicati, sedicenti, complicati giornalisti finanziari dovremmo partire. Ora pubblicità e poi torniamo con Io ti fotto di Marco Aurello e Carlo Tecce. Ed è un po' anche a scopi depurativi il libro Io ti fotto, Ponte alle Grazie, di cui stiamo parlando con i due autori Marco Morello e Carlo Tecce. Serve un pochino a diventare più consapevoli delle tossine che le fregature così fitte nella vita pubblica e privata nazionale ci infliggono, e a tentare di diventare anche un po' meno potenziali attori di fregature, che sono quelle che poi noi stessi rifiliamo ai nostri concittadini e ai nostri clienti, dipendenti e fornitori. Allora, andiamo un secondo al capitolo, uno dei capitoli del grande lamentatorium nazionale, quello delle truffe invece relative agli spostamenti, ai viaggi, alle vacanze, ai mezzi di comunicazione e così via. Quindi la domanda per Marco Morello è, io per il capitolo due appunti. Primo, io non sono molto d'accordo sulla parte che dedicate a Ryanair e a low cost, perché la mia opinione è che lì non è una truffa, lì il problema è low cost è diventato uno dei segmenti assolutamente fondamentali che ha consentito la mobilità e consente la mobilità a un mucchio di gente che altrimenti l'aereo non lo prendeva. Dall'altra, la stringenza assoluta persecutoria del rispetto delle norme per i volumi dei bagagli, quello che non si può portare eccetera eccetera, e quindi il fatto che poi scattino tutte quelle maxi tariffe su cui il vettore fa il più dei propri margini, beh, questo però non è che non sia dichiarato in qualche misura, quindi è lì più che truffa, è una delle condizioni del vivere a basso costo. E forse siamo noi che poi pensiamo all'interpretazione sempre più lasca come italiani, dicendo vabbè, ma tanto mica poi faranno sul serio, che non riusciamo ad adattarci a un mondo di regole precise. E invece, al di là di questa osservazione, ti chiederei dare qualche particolare in più su questa cosa che ho trovato uno dei passaggi più utili del vostro libro, quella in cui si mette in guardia tutti coloro che dispongono di autoveicolo, di un'automobile, di una motocicletta, di un autocarro che magari non è in ottime condizioni, di stare bene attenti a che cosa si rischia se fuori da un raccordo anulare, e quindi se su un'autostrada si finisce con il mezzo in panne, perché la fregatura può essere veramente in agguato. Io devo prendere in prestito, proprio per raccontare questa esperienza ai nostri ascoltatori, un po' queste metafore ornitologiche che si stanno usando moltissimo anche nella politica, perché purtroppo solo fuori, diciamo, dalle strade, quelle più controllate dove ci sono i pedaggi, e quindi naturalmente poi l'ispezione, la sicurezza viene in qualche modo messa al primo posto, ci sono i cosiddetti falchi. I falchi non sono dei rapaci. No, perché tu con quell'attacco ci hai fatto alzare, chissà che pensavano quelli che hai detto. Qui tutti strizzate l'occhietto, tutti bravi. Eh no, perché allora, ormai la parola falchi non si può più utilizzare, quindi dobbiamo fare attenzione, insomma, quantomeno a contestualizzarla, questo era il motivo della mia premessa. No, in questo caso parliamo di falchi, però, che sono a quattro ruote, che di fatto sono dei pattugliatori delle strade, dei pattugliatori con la truffa, perché loro in qualche modo cercano di arrivare prima dell'ACI, prima di tutte, diciamo, quelle che sono poi, perché bisogna fare una premessa: in caso, insomma, una macchina dovesse fermarsi in mezzo alla strada, ci sono delle concessioni che lo Stato ha dato per in qualche modo calmierare le tariffe, per fare attenzione che non ci siano dei veri e propri salassi a chi chiede assistenza insomma, perché la macchina venga in qualche modo portata fino alla prima officina, oppure dove l'automobilista ritiene opportuno. È un bel business perché ovviamente i costi sono molto alti se rapportati a quello che effettivamente poi è la prestazione che viene erogata, e questi falchi se ne sono accorti. Che cosa cosa hanno fatto? Hanno iniziato a intercettare tutte le comunicazioni che vengono fatte ad esempio dalla polizia stradale, oppure banalmente tramite anche sofisticati sistemi di intercettazioni sono riusciti anche a entrare nelle onde radio che insomma permettono di comunicare dalle diverse piazzole dove si richiede assistenza. Loro arrivano prima quindi del soccorso effettivo, quindi io ad esempio chiamo l'ACI, però mi vedo arrivare un altro tipo di, diciamo, di carro attrezzi che ha o le stesse insegne o quantomeno gli stessi colori, e quindi sono indotto a pensare, visto che l'ho chiamato io, che sia effettivamente poi il soccorso autorizzato. La tattica e la fregatura è duplice, perché da una parte io rischio di essere portato non in un'officina convenzionata, ma in un'officina che è connivente con questi falchi, ma poi soprattutto, proprio perché loro fanno in qualche modo del cumulo degli interventi il core business, insomma il punto focale dei loro affari, tendono veramente a lasciare le automobili al primo svincolo oppure a poca distanza da dove effettivamente la macchina si è guastata, si è fermata. E i numeri sono impressionanti, soprattutto sulla Salerno-Reggio Calabria, guarda caso ancora quell'autostrada che insomma di cattivi primati fa incetta anche questo, nei periodi estivi, quelli quindi di intenso traffico, è stato calcolato che un intervento su due viene effettuato appunto da questi falchi, da questi camion non autorizzati. E la cosa che mi ha colpito, e che poi nel libro abbiamo cercato con Carlo di enfatizzare, è anche questa fregatura visiva, cioè questo in qualche modo emulare anche le insegne, i numeri di telefono e quant'altro, di modo che poi diventa veramente complicato per chiunque di noi riconoscere che effettivamente quella è una truffa, perché poi come si fa a capirlo se effettivamente abbiamo telefonato a qualcuno e se effettivamente arriva qualcuno con le insegne dell'azienda che abbiamo contattato. Marco, nel libro il passaggio che dedicate alla storia, per così dire, esemplificativa per le truffe, quelle dedicate ai turisti, per così dire, anche in quel caso ai turisti soprattutto, che come è giusto passano mesi e mesi volendo diminuire l'esborso a scegliersi il viaggio, e la conclusione un po' amara che mi pare di aver letto è quella che si rischia di più in questo segmento dell'offerta turistica con interlocutori italiani piuttosto che quelli di paesi magari anche molto lontani dall'Italia, ma che offrono servizi a basso costo direttamente nel loro paese. Cioè, in quel caso sono gli italiani del ramo, per così dire, che fregano di più, perché io mi pare di aver capito questo come sottinteso, di dare un consiglio a chi giustamente deve risparmiare sulle loro vacanze, si rischia di meno a prenderli gli operatori turchi, giordani, siriani eccetera eccetera che quelli italiani. A quanto pare è corretta la tua visione, quella che abbiamo raccontato nel libro è la storia di Mirella, che poi insomma a livello generale all'interno del libro abbiamo cercato di partire da storie, no? Perché insomma l'exemplum docet poi, quindi in qualche modo riesce poi a raccontare meglio un fenomeno partendo dal basso puntando verso l'alto. È meglio sì, perché banalmente gli italiani hanno trovato uno stratagemma, che è quello di offrire gli stessi pacchetti che vengono offerti da operatori locali a un prezzo più basso. Come? Sparendo e non pagando i servizi sul posto. Quindi ce ne si accorge quando oramai è troppo tardi. Quando io mi trovo, ad esempio, il 10 di agosto, che sono dall'altra parte del mondo, comunque in una località che non conosco, che sono lì, quindi ho bisogno di riposarmi, di fare una vacanza, però poi succede che le cose per cui pensavo di aver pagato effettivamente non sono state pagate. C'è l'ordinamento che per fortuna soccorre in qualche modo, perché c'è una cosiddetta figura vera e propria che è il danno da vacanza rovinata, che prima aveva dei limiti temporali, oltre una sorta di prescrizione oltre i quali non si poteva più fare ricorso, ora invece è all'infinito. Il problema è che questo infinito può restare tale banalmente perché non si trova poi chi ha perpetrato questa truffa, e questo perché quasi una vacanza su due ormai si prenota online oppure comunque tramite sistemi telematici virtuali, e quindi questo poi lo raccontiamo anche nel tutto un capitolo che si chiama il fottere virtuale. Il vero problema è rintracciare la persona con cui ci stiamo interfacciando, e questo è il vero dramma poi. Interfacciare sarà il momento di riflessione, quello dedicato a internet successivo, ma intanto prendiamoci qualche telefonata dai nostri ascoltatori. Iniziamo con Virgilio, che chiama da Ravenna. Prego Virgilio. Salve signor Oscar, salve i suoi ospiti, signor Tecce, che ogni tanto lo leggo sul Fatto Quotidiano. Ma io credo che, auguro intanto una fortuna editoriale grandissima a chi scrive di questi argomenti, però memori dal successo della CAST, questo paese non ha reagito a niente, tranne i primi 15-20 giorni, tutto è andato in cavalleria, gli impuniti continuano a girare per la strada, se hanno più di 70 anni non vanno in galera. E perché? Quindi, secondo lei ci piace chi frega? Questo? Noi no. Abbiamo, io credo che in questa nazione sia stato inoculato una specie di abbiamo una situazione che siamo immuni alla legalità, cioè noi addirittura. Sì, guardi, io ho esperienze quotidiane per tanti motivi di lavoro, sono a contatto con tanta gente perché frequento, come le dico, sono del commercio, dal giorno, cioè qui, dalla mattina quando apri la porta a quando vai a letto la sera sei a rischio di fregature, ma non è pessimismo, io guardi che tendenzialmente do i dati a cui sono però, contatto. Però le posso fare una domanda, nella sua esperienza, naturalmente sì. Ognuno ha la sua opinione, però mi interessa, lei telefona e quindi porta, nella sua opinione, sì. Questa immunità alla legalità, per così sì. dire, ce l'abbiamo da lungo tempo, per una storia plurisecolare, guardi, siamo arrivati tardi e male a stati sovrani moderni, oppure perché degli ultimi anni, secondo lei? No, questa è una roba che noi ce l'abbiamo, io a me piace leggere i libri di storia, quindi noi non dico che è dal 200 ma dal 1500 per stare ai dati più recenti, cioè noi ce l'abbiamo insito nel fregare il prossimo perché al limite ci ridiamo anche sopra, non abbiamo la vergogna, non sì. Anzi, da noi, come diceva Prezzolini, il vero furbo è quello che frega di più. Le faccio solo un esempio e poi chiudo. Lei ha presente la WorldCom e Erron negli Stati Uniti? Sì, sono sì. in galera. Sono in galera. I nostri hanno la piscina del soggiorno, cioè la residenza ce l'hanno in una piscina con una casa bellissima. Non so se mi spiego. No. Si spiega, anche se però, Virgilio, qui entriamo poi in una roba che si chiama giustizialismo. Io credo che i paesi in cui si frega di meno sono quelli in cui c'è un'adesione spontanea, non tanto quelli in cui c'è la sanzione più pesante. La sanzione più pesante, come negli Stati Uniti, spesso serve. Proprio perché anche lì si frega mica male, cioè a dir la verità. Mentre invece i paesi, quelli a basso tasso di fregatura, sono quelli con un elevato tasso di propensione all'adesione spontanea alle norme, perché si ha un'idea della fiducia come fondamento perché il mercato funzioni, faccia meglio i prezzi, e quindi il mercato funziona meglio se lo freghi di meno il cliente, non se lo freghi di più. E dall'altra, nella vita pubblica, si ha un'idea di uno stato in cui la cosa giusta sia far pagare il meno possibile una cosa di miglior qualità possibile, non il più possibile, a prescindere dalla qualità, come funziona invece per noi. Ma stiamo parlando di internet sempre con Marco Morello. Quella è una dimensione abbastanza brutale, secondo me, in cui milioni di italiani, utenti inconsapevoli, rischiano molto, perché lì si rischia l'identità, si rischia il conto corrente, si rischiano cose per cui si piange molto, insomma, ecco, non si rischiano poche centinaia di euro. Che cosa si può dire a chi ci ascolta e che magari utilizza un proprio computer, ma insomma senza essere troppo esperto di procedure, l'ABC per evitare di essere carpiti e rubati nelle identità più profonde nella rete? Beh, anzitutto purtroppo i dati ci condannano, perché noi siamo il primo paese di lingua non inglese nel mondo a subire attacchi di phishing. Il phishing vuol dire che appunto qualcuno cerca di entrare nel nostro computer tramite una mail oppure anche inviandoci una fotografia, quindi con sistemi che fanno parte poi del vivere quotidiano. Però oltre a subirli li portiamo pure. E siamo dei geni nel portarli, cioè il genio italico sulla rete si è scatenato. Noi abbiamo raccontato delle storie in cui probabilmente abbiamo battuto e superato anche, insomma, gli americani, che nella storia poi dell'hackeraggio hanno veramente creato dei precedenti illustri, proprio per una grandissima fantasia. Rispondo alla prima parte della domanda. Il consiglio più banale è fare attenzione estrema. Io racconto una storia di Kilros, che è questo hacker russo che ha rubato 1,5 milioni di profili di Facebook, 1,5 milioni di profili in tutto il mondo, quindi ovviamente incluso in Italia, per rivenderli sul mercato nero virtuale, quindi venderli, diciamo, ad organizzazioni che di scrupoli evidentemente non ne hanno e da cui, tramite le nostre password, possono poi carpire tutti quelli che sono i dati sensibili, perché ormai Facebook è diventata una sorta di cassaforte poco sicura, insomma spalancata su quelli che sono i nostri gusti, le nostre preferenze. E in questo caso l'avvertenza è la più banale, però pensiamoci un secondo, cioè l'avvertenza è cambiare la password regolarmente. Quanti di noi hanno effettivamente cambiato la password di Facebook dal momento in cui lo hanno aperto? E Facebook è significativo perché, l'ho scritto il Financial Times nel marzo di quest'anno, è diventato il primo sito in cui si entra direttamente non appena si apre il browser. Cioè, prima io accendevo il computer e andavo a navigare su Google oppure su qualsiasi sito per cercare delle informazioni o comunque. Adesso la prima cosa che faccio è entrare su Facebook, loggarmi su Facebook, perché insomma è diventato, da quello che poteva essere un passaggio, è diventata diciamo il punto di partenza. Da lì quindi transitano tutte quelle che sono le nostre preferenze, eccetera, eccetera, condivisioni di quelli che sono i nostri gusti, che sono una merce diventata molto appetibile, tant'è che un gruppo di 1,000 profili, parliamo di dati perché poi sono quelli che fanno effettivamente capire la portata del fenomeno, può essere scambiato da 25 a 45 dollari, quindi c'è un mercato che è florido, c'è un mercato perché c'è una domanda che è florida, quindi questo è il punto. Poi dicevo del genio italico, quello probabilmente si sostanzia su eBay, dove le truffe si sprecano, ci sono siti come eBay Abuse che raccontano vicende di tutti i tipi assolutamente inimmaginabili, come quella di un'asta per esempio che è stata chiusa a un prezzo molto favorevole per una fotocamera che costava 600 euro, è stata venduta a 400, perché banalmente il venditore ha inviato un link di pagamento alla persona che pensava di aver concluso un affare e tramite quel link, tramite quel collegamento che scimmiottava in tutto e per tutto uno dei sistemi di pagamento più diffusi nel mondo, era riuscito a capire i suoi dati e quindi un mese dopo, quando un po' le acque si erano chetate, quindi il ricordo non era più vivo di quell'affare, è riuscito a prelevare tutta la disponibilità, tutto il plafond della carta di credito. Non stiamo parlando di truffe clamorose, però io immagino che non faccia piacere a nessuno da un giorno all'altro vedere 2000 euro in meno sul protestato conto. Oppure insomma dover bloccare tutti i propri documenti e quant'altro, ecco. Ora le informazioni sulla circolazione stradale. Buonanotte di ascoltatore, cominciamo con Lorenzo dalla provincia di Venezia. Prego Lorenzo. Buongiorno Giannino e buongiorno agli ascoltatori. Viva la sua lucidità, razionalità e buonsenso, emergerà al giorno d'oggi. Dunque, vengo al dunque, purtroppo le truffe sono una cosa che diciamo esiste, è un po' come camminare in un prato, ogni tanto si mette il piede nel posto sbagliato. Quello che fa rabbia però è che quando si è truffati lo Stato e le leggi non certo ti aiutano. Mi spiego meglio, ho dato in affitto un piccolo appartamento, due locali a una società. Questi pagano l'acconto e dopodiché fine, più niente. A questo punto non è che dopo due mesi, visto che non hai pagato, cambio la serratura fuori. No, devi fare un processo, devi pagare un avvocato, se entri, lo chiamo addirittura esercizio abusivo dei tuoi diritti, una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. Dopodiché se per caso rimane della roba là dentro, del materiale, diventi anche custode, devi anche custodirla invece che magari incamerarla in cambio del credito che insomma hai maturato. Quindi non credo che sia molto da stupire se poi la gente si invelenisce e qualche volta lo Stato, che bisogna dire sempre sì, bisogna chiamare lo Stato, ma poi non si fa trovare e non ti aiuta quando sei dalla parte della ragione, assolutamente. Questo aiuti molto. Non so se si ricorda il caso Tucker, qualche tempo fa, una mega truffa. Come no? Però se lei in pubblico andava a dire questo è un bidone, rischiava di farsi denunciare e magari quello aveva pure ragione perché lì comunque gli rovinavi il business. Certo. Si arriva a cose di questo tipo. Che Lorenzo, però io ho l'obbligo di dire, e anche di questo trovate un capitolo di ricostruzione documentativa nel libro Io ti fotto di Marco Morello e Carlo Tecce, che l'altra faccia dello Stato che non è garante del rispetto dei diritti di proprietà, come nel suo caso il proprietario di un immobile, l'altra faccia di questo Stato è lo Stato che chiude un occhio su una parte fondamentale, estesissima, dell'affitto a basso costo, per esempio per studenti, giovani che non possono permettersi i livelli medio-elevati dell'edilizia residenziale e così via, in cui il più delle operazioni di affitto continua ad avvenire in nero. E qui trovate documentato proprio per diversi quartieri di Roma quali sono le cifre che vengono oggi chieste ai poveri studenti, e gli studenti devono soggiacere, c'è poco da fare perché altrimenti non la trovano una casa. E stiamo parlando di slep di 1000 euro al mese per avere una stanza da condividere con altri nella appartamento, questo è più o meno è l'ammontare. Ancora sentiamo Francesco da Milano e poi andiamo rapidamente alle conclusioni. Francesco, che ci dice? Eccomi, buongiorno. No, io vivendo ormai all'estero, vivendo in Francia, quando vedo in Italia vedo proprio una differenza di sensibilità da parte dei cittadini. Diciamo, ecco, la sua esperienza è che in Francia ci si frega e si frega di meno. No, e poi ci frega, non ho capito, scusi. La sua esperienza è che in Francia ci si frega reciprocamente e insomma si frega di meno che in Italia. No, no, assolutamente, si frega probabilmente nello stesso modo, ma sostanzialmente essendoci uno Stato e delle istituzioni e una giustizia e un modo di conciliare molto più efficiente, le persone fanno molto più attenzione, cioè nel senso che i cittadini stessi sono molto più presenti, hanno una coscienza di cittadinanza molto più attiva. In Italia invece siamo più nell'ambito della sudditanza, cioè direi che il fatto che l'Italia è uno Stato molto più recente, i cittadini sono più sudditi, si arrangiano di più, hanno paura di farsi sentire in modo organizzato. Io sono molto d'accordo con questa osservazione di Francesco da Milano. Noi siamo ancora sudditi perché cittadini troppo recenti, e siccome le forme di cittadinanza, dal fallimento della destra liberale che ha fatto lo Stato, alla tragedia del fascismo, alla Prima Repubblica e ai vent'anni finali della Prima Repubblica, Repubblica con il furto legalizzato dei partiti per i propri costi, a questa Seconda Repubblica anomala col tycoon che identifica vizi e virtù in una specie di opacità in cui non si riesce a distinguere gli uni dagli altri in maniera condivisa, è una storia troppo recente dei successivi collassi. E quindi noi introiettiamo il suddito che si deve difendere come nel 600 italiano si difendeva il personaggio classicamente descritto dal Manzoni. Questa è un pochino la sintesi, che però detta così è una sintesi un po' disperata e un po' disperante, mentre invece noi dobbiamo poi anche nella lettura finale del libro Io ti folto di Marco Morello e Carlo Tecce, questa è la mia domanda finale a Carlo Tecce, voi non a caso concludete con un capitolo che è dedicato prima delle conclusioni al fottere pubblico, cioè a richiamare tutte le storie che dalla cricca recente dei lavori pubblici e dalle procedure speciali della protezione civile via via, fino poi alle truffe pubbliche, quelle in cui partecipano gli italiani in massa, quelle dei finti invalidi e così via. Il capitolo del fottere pubblico come sintesi generale del fottere troppo nel nostro paese vi vede alla fine, Carlo, lo chiedo a te, ma insieme a Marco, vi vede speranzosi o il vostro è un libro per dire disperate, qua si entra la città dolente? Ma diciamo che il virus del fottere colpisce un corpo debole che è lo Stato, ma questo corpo può essere curato. Certo che ogni parte del corpo deve contribuire alla guarigione, un singolo cittadino dal politico. Quello che manca magari in questo, per essere cittadini e non sudditi, è anche un po' di senso civico e di rispetto reciproco, questo sia dai grandi imprenditori che magari da giro le gare d'appalto, che dai singoli cittadini, come diceva l'ascoltatore di Ravenna, che dalla mattina quando si sveglia, la sera quando si va a dormire, devono divincolarsi tra mille truffe. Vogliamo dirlo, Marco, che forse dobbiamo un pochino, voi lo fate anche su giornali in cui si rischia di più, si polemizza di più, vi divertite anche di più, ma è l'espressione della libertà, ma non dobbiamo noi per primi forse essere, al di là della retorica della morale, essere più capaci di rompere le palle, perché poi alla fine questo è, meno fregature significa rompere le palle di più a chi frega. Beh, è un po' la conclusione del libro, è esattamente questa la conclusione del libro. E infatti, assolutamente. E infatti. Cioè, l'indignazione, ma anche l'indignazione fino a se stessa non è che serva, cioè bisogna anche agire in maniera in tutti gli ambiti in cui si riesce ad arrivare per essere scocciatori, seccatori, insomma sì, è giusto, per rompere le palle finché magari la situazione, qualche nube in meno, insomma, ci sia in cielo, tutto qui. Esatto, allora io continuo a dirvi, fatevi sta bella lettura, 14 euro, Ponte delle Grazie, Utifotto, Marco Morello, Carlo Tecce, ne abbiamo parlato con loro, galleria di come ci si frega a vicenda da cittadini con lo Stato e con lo Stato con i cittadini, però non disperiamo, per fregare di meno iniziamo a fregare noi meno gli altri, ma dobbiamo ottenere che sia innanzitutto lo Stato a fregarci di meno. Grazie a Marco Morello, grazie a Carlo Tecce, grazie a Carmelo Lauricella in regia e a Franco Piantanida, assistente in redazione, e alla diretta Franco Piantanida, sempre lui, la linea generale radio, appuntamento a domani.